Benvenuti a una nuova puntata di Luce nelle Tenebre, questa sera indifferita perché abbiamo avuto una conferenza, quindi una puntata molto particolare, in diretta con un sacco di rumore di fondo, quindi se non sentite niente non offendetevi con noi. Sono Eleonora, qua abbiamo... E sono Abiesa, salve a tutti, benvenuti di nuovo a Luce nelle Tenebre. E questa sera abbiamo un ospite particolare che adesso facciamo parlare subito così poi lo possiamo liberare, che già ci odia. Sono qui molto volentieri, non vi odio, però non so che cosa devo dire. Parlaci di te, raccontaci cosa hai detto a questa conferenza. Precisiamo che questa è stata una conferenza organizzata dalla redazione Luce nelle Tenebre, che ha avuto una serie di ospiti, tra cui appunto Valerio di Radio Alice, che è qui con noi. E qual è stata la tua impressione di questa conferenza? Ti sei sentito a tuo agio? Hai trovata utile? Sono ancora alla Radio Libera? Può essere un argomento di cui parlare oppure fuori tempo? Allora... La cosa è stata secondo me simpatica, le cose di cui abbiamo parlato piacevoli l'argomento mi appassiona, perché essendo stato un pezzo della mia vita e anche un pezzo significativo, ovviamente ho partecipato volentieri. Secondo me le radio hanno ancora un ruolo, e parlare delle radio, anche se in termini storici, soprattutto come questa sera, è ancora qualcosa che vale la pena rifare. Io davvero, Valerio, ti ringrazio tanto di essere stato qui con noi e speriamo ulteriore future collaborazioni, se non con me, che ben presto lascerò Bologna, però con i miei eredi. E niente, davvero, ora ti lasciamo andare. Grazie mille. Ciao Valerio. Perché hai messo l'altra? Frega niente. Ti sei sbagliato? Intrippata! Ah, c'è il tecnico che si sbaglia. Il tecnico che è un po' ubriaco e quindi continuiamo, ma qui abbiamo due canterini. Io sono Stefano, comunque, perché non mi sono presentato prima. Sono Alessandra. Che bella voce che hai, Stefano, veramente, complimenti. Davvero, sei molto gentile, ma vogliamo sentire un po' delle vostre voci. Ragazzi, dovete cantare per noi, non so cosa, scegliete voi. Damiano, facci un solo. Ma il canto è un concetto aleatorio. Non mi rompere il cazzo. Non si dicono queste parole in radio. Canta qualcosa, Damiano. Ora devo cantare, ma io non so cantare. Canta, canta, suona e canta. Suona e canta con amor. Gira e rigira, è sempre la solita storia. Va bene? Benissimo. Momento di serietà. Il Centro Pace di Cesena e l'associazione Operation Daywork di Bolzano vi invitano a partecipare al progetto WAVES, Women Against Violence in the Skoda Region. Per occasione verranno a visitarci quattro ragazze albanesi, fondatrici dell'associazione APA Telete, Passi Leggeri, le quali sono state vittime nell'arco della loro vita di violenza domestica e al momento svolgono opera di assistenza verso le donne che lo sono a loro volta. Gli incontri si effettueranno a Bologna e a Cesena dal 18 al 22 marzo. È gradita la presenza e in conseguenza della loro visita ci sarà un viaggio di conoscenza dell'associazione in Albania. Il progetto Operation Daywork donerà 22.000 euro all'associazione per l'apertura di un nuovo sportello nella regione nord di Scutari. Ringrazio per l'attenzione e buonasera. Damiano Censi del Centro Pace. Molto bene. Adesso noi continuiamo questa diretta salutando al volo in studio i nostri amici, gli augurandoli una buona serata. Continuiamo con questa trasmissione. Intanto vi facciamo sentire dei rumori di scena di fondo. Ciao a tutti, sono Camilla Ioli. Siamo la nostra amica Camilla. Camilla. Ciao a tutti, quella di prima non ero io, era una gag, era quel coglione di Dario Chiari che fa giurisprudenza in corso AC. Nel caso non l'avesse incontrato prima. E dove si siede? Si siede solitamente in terza fila, perché la prima è troppo prima e l'ultima è l'ultima. Quindi terza fila a sinistra. Sinistra come un vero compagno, quindi. Sì, perché il bagno è sempre in fondo a destra. Bravo. Così puoi rompere il coglione più gente possibile. Esattamente. Oh, abbiamo uno special guest. Il tuo nome? Nicola. Nicola, e cosa ci proponi, Nicola? La suddetta Valentina mi ha quasi più o meno obbligato, catturato mentre ero lì tranquillo, e mi invita a dire che mi piace il limoncello perché mi fa sentire bello. bello, fa anche rima, più di così non so cosa dire, ma che domani vado a donare, quindi purtroppo stasera non si può. È un donatore. Non posso bere più di tanto. Che gruppo sanguigno sei? A meno. Io sto cercando uno 0 RH negativo. Avete sentito, gentile pubblico? Uno sta cercando uno? 0 RH negativo. Attenzione, attenzione. La povera Valentina è anemica e ha bisogno di tanto sangue. Vi prego, gente, cercate dello 0 RH negativo. L'ha trovato. Ma da oggi l'ha trovato grazie al potente mezzo quale la radio. Federico sta partendo per Parigi. Sto partendo per Parigi per fare uno stage presso un'associazione di diritti transessuali, quindi... Ma non verrà tutto questo, vorrà andare in onda, vero? Verrà tagliato... No! Non ti preoccupare! E quindi niente, più diritti trans per tutti. Ciao, sono Federico, sono molto bello. Ho i capelli corti e a Parigi farò un sacco di scalpore. Di cosa? Va bene, continuiamo, ma abbiamo due artisti internazionali provenienti, interregionali, provenienti addirittura dal Veneto, se non sbaglio. Veneto, abbiamo qui con noi... Marta. Marta, proviene dal paesino di... Catto comunista. Marteago. Marteago. Cosa ci propone Marta da Marteago? Io farò la traduttrice perché Marta ha dei problemi, è veneta, non può parlare italiano bene. Veneta, Tasi, Eleonora Tasi. Marta mi dice di tacere perché è un po' ignorante, è una contadina, ma ascoltiamo quello che ci vuole dire. El meon ze bon. E voi dovete ripetere el meon ze bon. Il melone è buono. El meon ze aranson. Il melon ze aranson. E gli altri col meon. E gli altri col meon. Abbiamo fatto una canzone. Abbiamo fatto una canzone. Questa canzone me la cantava mia nonna per farmi addormentare ogni sera. Va bene, e adesso dobbiamo cercare altre vittime. Le troveremo, non vi preoccupate, stanno per arrivare. Allora, qua c'è Nazario. Ciao. Che ci vuole salutare? Perché sta andando via? Ah, allora, no, ma io non sto andando via, sto semplicemente andando a fumare. Allora tornerà tra poco. Re, ciao. Andiamo a fare questa caccia ambientale, andiamo Eleonora. Altro tecnico, ti devo informare di una cosa. Che cosa? Abbiamo un free drink. No. Andiamo a prenderlo. Io ho i soldi per una birra. Perché sei scemo. Porco cazzo. Noi ce l'abbiamo, tu no. La nostra artista ci saluta e... La nostra artista... Veneto libero! Veneto libero? Quanto pare gli stereotipi sui veneti non sono così poco, tanto falsi. E adesso è ora del free drink e vi lasciamo con una canzone a caso. No, non una canzone perché c'è Marta che prenderà il microfono e parlerà con voi. Ciao a tutti, io sono Marta. E volevo appunto presentarvi dei miei amici che sono contentissimi di parlare in radio. Ciao, anche io mi chiamo Marta e sono felice di essere qui con tutti voi e basta, vi ripasso l'altra Marta. E c'è anche Fede. Già ho parlato io prima, ho detto che vado a Parigi, ho già parlato. Marta è un po', non so, maleducata e non le interessa che Fede vada a Parigi, ma in verità è solo invidiosa del fatto che lei invece rimane qua a studiare matematica. Ma è una materia importante. Bene, adesso passiamo ad altri studenti di matematica. No, aspettate, abbiamo uno special guest, sì? Lo presenta la Vale adesso, Vale. Signori, signori, no, non scappare, vieni qua. È scappato. Era la tua occasione per diventare famoso. Va bene, comunque, allora, adesso passiamo a due persone che sono un po' più timide, che stanno scappando, sono letteralmente corse via, però noi siamo molto ginniche e atletiche e le abbiamo recuperate, quindi potete solo salutare. Ciao a tutti! Ciao a tutti, lei è Sara! E anche lei studia matematica, yeah! E anch'io sono Sara, per originalità. In questo momento abbiamo due Sara e due Marte, ma adesso facciamo una piccola variazione di nomi, ma non dovete ricordarli tutti, quindi. Lucia, ma vivo con le Sare. Angelica, ciao a tutti. Vivo con le Marte. Ok, volete dire qualcosa? casa no, fanno tutti segno di no, nessuno ha niente da dire in questo mondo. Soprattutto gli altri due tecnici hanno avuto un free drink e quindi sono scappati, letteralmente corsi al bancone del bar. E quindi in questo momento manca gente. Tipo tu, Marta, da venerdì dall'una all'una e mezza, cosa fai? Ascolto la radio. Che radio? Esatto, adesso lo ridice l'Ange. Allora, questa persona scappa. Io vorrei che voi poteste vedere questa scena, ma non la vedrete, non la sentirete neanche. Va bene, allora, al tre ragazzi, 3, 2, 1. Sono coordinatissime, coordinatissime, meno male che non fanno le ragazze pompon nella vita, perché altrimenti... E vanno sempre più lontano, tra l'altro. Ma noi abbiamo un microfono con la prolunga, perché siamo adeguati a ogni situazione. Quindi, ci siete? Avete imparato il nome della radio? No. No, non ce la fanno. Dai. Ok, ma tutte, facciamo tutte. Volete riprovare? Adesso anche la Luce ha imparato la radio. Che sa... Ok, Radio Città Fujiko. Il programma è Lucciole nelle Tenebre. Sì. Ci siamo? Ok, allora al 3, 2, 1. Radio Città Fujiko. Bravissima, adesso tutti sapete che cosa ascoltare. Per adesso, per il resto, io dovrei fermare altra gente. Marta, perché tu studi matematica? La domanda è perché continuano ad arrivare i matematici, cioè variamo un po' la società di questa serata. Perché c'è, sono ritornati i tecnici che hanno avuto il free drink, che gioia. Allora ripasso il microfono a Stefano, che non sa tutto quello che è successo e non sa che dovrà cancellare tipo 20 minuti di trasmissione. No, no, terremo tutto, non vi preoccupate. E adesso, adesso stiamo andando alla ricerca di altre vittime, volevo dire altri ospiti all'interno di questa trasmissione. E vediamo... stiamo registrando delle persone, qualsiasi persona voglia parlare può dire. Sì, ma perché sto parlando a volume molto alto. Vuoi dire qualcosa? A proposito, tu mi sembri molto informato. Come ti chiami? Francesco. E cosa vuoi lasciare a contributo a questa puntata? Puntata di cosa? È una puntata di una trasmissione radio che andrà in onda FM. Bene. Raccontaci Radio Città Fujiko 103.1 FM. Quale? Birra per tutti! Qual è stata la tua esperienza radio? Racconta. Ma la mia esperienza radio no, è stata molto positiva, perché ho imparato sicuramente un sacco di cose, sia sulla radio sia in generale facendo i programmi, insomma. Ho conosciuto un sacco di persone che hanno fatto qualcosa nella vita, degli scrittori, dei musicisti, un sacco di gente molto interessante. Qui la radio è sempre un luogo magico. Ma su che radio eri? Era una radio web? Sì, su due radio web. Una è, vabbè, sconosciutissima, l'altra è Alma Radio, che è la radio non ufficiale dell'università, che è nata un paio di anni fa, adesso esiste ancora, però diciamo non è diventata la radio ufficiale dell'università, perché l'università non ha accettato, diciamo, la richiesta di ufficializzare questa radio come radio universitaria. Ok, grazie mille. Puoi ripetere il suo nome? Puoi ripetere il tuo nome? Francesco. Ok, ringraziamo Francesco per l'intervento. E qui abbiamo direttamente una persona da Reggio Emilia. Dai, Giobbe! Giobbe! Dai, un'intervista pre-concerto. No, rega, vado a cantare, rega, bella. Così dal giorno. Sì, invece sì, perché siamo contro l'autocensura. Allora mi dai free drink? No, posso avere un free drink? Perché lei ha un free drink e io no? Tutti free drink. Voglio un free drink. Leonora, dammi. Cazzo. Potete andare a picchiare la Bisa, non è colpa nostra. No, non scaricare responsabilità. Noi siamo più fighi. Eh? Fate un duetto. Facciamo un karaoke. No, metteteci un karaoke. Sì. Ciao, sono io. Amore mio, pensavo a te, vieni appena puoi, quando ma non so le parole. Ho perso le parole. Eppure le avevo qua un attimo fa. Le cose. Che sai? Che ti dovevo. Che ti dovrei. No, qua abbiamo una dichiarazione di un'altra persona che è vicino a me. Ma in realtà sono stata costretta a farla, era una dichiarazione d'amore, doveva essere spontanea, così non l'è più. Non dire così, non ci fa piacere, ci ferisci un po'. Dai, adesso è una dichiarazione molto più spontanea, ti vedo più felice. Ci vorrebbero più Eleonore a questo mondo, più Eleonora per tutto. Grazie, bene, ti amo. Sembra una cosa brutta. Vabbè, la dichiarazione è perché Marta non ha invitato il ragazzo di cui mi sono innamorata e quindi... Sono molto triste, ma sono ferito lo stesso perché sono con voi, quindi... Grazie, buh, merda di merda! Scusate, a mia discolpa vorrei dire che io questo ragazzo non l'ho mai visto e non so chi sia, però la prossima volta cercherò di invitare tutti in modo che anche lui sia presente. Già mi piace, già mi sta simpatico. Abbiamo trasmesso la posta del cuore, la nuova rubrica, non so più parlare, di Lucciole nelle tenebre. A Stefano togliamo i free drink tra molto, molto poco. Ora, che poi questa cosa che tutti i tecnici radio, tranne me, hanno il free drink, vorrei un attimo capirla. È vero, solo i tecnici? Neanche gli speaker? Queste mi sembrano tutte scuse. Solo i tecnici, merda. Mi sta rubando la birra, vorrei dire a tutti che mi sta rubando la birra. Più sbatto significa più alcol. Direi che possiamo andare a registrare in modo pirata un pezzo del concerto. Eleonora, seguimi. Arrivo. Signore e signori, la folla è invisibilio. C'è un sacco di gente qui al concerto di Giobbe. Attenzione, attenzione. Registriamo solo per voi in diretta il pezzo del concerto. La parte del bridge. Luce nelle tenebre vi sta trasmettendo solo per voi il concerto di Giobbe dell'Arteria, 4 marzo 2015. Intervistiamo Laura. Grazie, buonasera. Ciao Laura. Come va? Benissimo. È una bellissima serata, siete stati bravissimi a organizzarla così. C'è un sacco di gente, l'Arteria è mai stata così piena. Come hai trovato la conferenza? Molto interessante, devo dire. Gestita bene, avete moderato bene, era adatta a tutti, anche chi magari non è molto pratico di questo tema, quindi magari poteva non seguirvi tanto, invece siete stati chiari, quindi direi bene. Ottima, ottima riuscita. Sintetica ma diretta. Grazie Laura. Alla caccia. I tecnici si muovono. Con passo felpato alla ricerca. Ciao! Ciao. Ciao, vuoi rilasciare un'intervista? Abbiamo una nuova vittima. Il suo nome? Erika. Erika. Erika, cosa ci racconti? Oddio, sono appena arrivata, non lo so ancora, mi devo togliere ancora il giubbotto. Non so neanche se... Erika, perché non eri alla nostra conferenza? Qual è la tua scusa? Perché nessuno me l'ha detto, come la conferenza? E lei oggi la farò un parziale amministrativo e a sé sono viva, non so neanche come sono capata ad arrivare qua. Vi presentiamo la rubrica Studenti in crisi. Qui con noi abbiamo Erika che ha appena dato un parziale di diritto amministrativo. Erika, come ti senti dopo averlo dato? Mi sento un po' confusa, un po' liberata, però allo stesso tempo non so il risultato ancora, quindi... Quindi in un momento di limbo fondamentalmente. Esatto, sono sconvolta anche da questo accoglimento così improvviso, sinceramente. Sei emozionata, siamo... Un sacco, ti abbiamo sconvolta. Che palpita. Bellissimo. Cerchiamo un'altra vittima. Oh, qui abbiamo un'ubriacona chiamata Bisaccioni, Benedetta. Salve, raga, posso dire una cosa? Sono molto contenta di, a parte questa serata, ma degli ultimi 3 anni della radio in generale. E che un giorno lasciarla farà molto male, ma ho un sacco di bei ricordi e grazie di avermene regalato uno ulteriore questa sera. Davvero, è il momento sentimentale, però è sentitissimo. Vi abbiamo presentato Momento Sentimento, la nuova rubrica di Luce delle Tenebre. Salve, abbiamo qui con noi la cantante prima del gruppo di Giobbe che si chiama... Mezzania. Insomma, come trova l'arteria? Ha trovato un pubblico caloroso? Ma probabilmente per le mie canzoni no, non è appropriato, nel senso che non è un terreno fertile. Probabilmente perché la musica che faccio non è così coinvolgente. O meglio, bisognerebbe ascoltarla. Ma ha già fatto concerti a Bologna, sì? No? Sì, però essenzialmente in posti piccoli, quindi dove si crea effettivamente l'incontro. Quindi è più una... è più di un, da un live di un posti ristretti tipo un club, queste cose qui? Sì, sì, perché è necessario per il mio obiettivo l'incontro con l'altra persona, con l'altro. Quindi ho bisogno di comunicare quello che dico ad un'altra persona, ho bisogno di guardarlo. Se non lo guardo, è lontano, mi gira le spalle, diventa difficile la comunicazione. E come definirebbe il suo genere? Io non parlo mai di genere, credo che... Cioè il suo stile, voi intendo. Sì. No, no, sì, sì. Io scrivo le canzoni da molto tempo e quando mi chiedono il genere o lo stile è molto difficile perché ogni canzone ha una sua casa, ogni canzone ha un suo motivo, un suo perché. Quindi ognuna è a sé stante. Non posso darle uno stile, vorrei dargli uno stile, ma nascono così liberamente. Quindi ognuna deve avere il suo percorso. E anche l'idea stessa di registrare, di creare un album, di fare un album è un'idea che mi affascina, ma dall'altra parte mi spaventa perché tende a cristallizzare e io sono contro la cristallizzazione. Ok, grazie mille. Grazie a voi, grazie. Invasione! Ah! Ah! Fai l'urlo da guerra! Ah! Andiamo a prendere. Ah! Due vittime ignare. Cosa volete dirci per la radio? No, no, no, sono due del presidio, ve li presento, Flaminia e Luca. Se non li conoscevate prima, ora sapete, ci stavano scappando. Cosa volete dirci sulla conferenza? Molto bella, bravi, complimenti, cose più banali di queste, non lo so. E niente, no, bravi, veramente è stata una bella serata, bella pure la musica, quindi grazie, ciao. Sì, molto interessante, infatti la musica è molto bella, infatti vi lasciamo che noi scappiamo al concerto e vi invitiamo a venire qui all'arteria. Una scusa come tante per lasciare questa trasmissione, tutti impauriti al parlare al microfono e non si sa bene il perché, ma qui abbiamo Margherita. Ciao Margherita, la nostra fotografa ufficiale della serata. Sì, è stato abbastanza problematico fare le fotografie perché tra il flash che non andava, l'automatico che non andava, le foto che non scattavano, insomma era molto problematico tutto quanto. E però dai, qualche foto c'è, ricordo, farò un fotomontaggio di Stefano con Valerio, perché di Radio Alice, perché non sono riuscita a fare altrimenti. Però dai, no, è andata bene, sono molto contenta che sia andata così bene, anche perché io stavo traslocando, quindi non mi sono impegnata manco proprio per niente. Però sono molto contenta ed è molto bello quello che state facendo, voi registrando in giro, e niente. Vai. Tra l'altro abbiamo ancora pochissimo tempo, purtroppo, e dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci, cioè mancano, oddio, manca un minuto e 20 secondi, dobbiamo trovare un'ultima cosa ferrante, presto. Vediamo un po' in un minuto e 20 secondi. Flavia, la mia comoderatrice. Comoderatrice, il cazzo, ero io quella più brava. Oh, scusate, siamo in diretta. Come, scusa? No, scusa, sei stato bravissimo. Di cosa stiamo parlando? Tolgo gli orecchini, Non io? Detto, tolgo io. Di cosa stiamo parlando? Sei sbronzo, se? No. Flavia, stiamo parlando di cose a caso, dici quello che vuoi, cosa ti senti? Non potrei dirti quello che penso in questo momento, non sarebbe politically correct. E soprattutto... testa di cazzo. Tu, Stefano, sei una testa di cazzo. Tu questa parte la tagli, vero? Non ti preoccupare, si taglia tutto. Ottimo. Comunque, ci sono tanti stimoli questa sera, Veramente sono molto contenta e soddisfatta della situazione. Margherita mi sta facendo una foto, ma io passerei il microfono al nostro Nazario, che ormai ci ha abituato. A volte ritornano Nazario, tra l'altro è un bellissimo film che io vi consiglierei di vedere, tra le altre cose. Parla di... penso che Flavia sia... in grado più di me di dirvi di che cosa parli questo film. Hai mai visto questo film? A volte ritornano. Parla di alcuni ragazzi. Che c'è? Devo fare? No, perché mi stai infilando? Aiuto! Mi infilano il microfono in bocca! Attenzione! Oddio, dimmi di questo film. Cosa? Dimmi di questo film. Ti dico di questo film. Allora, in realtà io questo film non me lo ricordo neanche troppo bene. Di conseguenza posso soltanto provare a ricordare alcune parti o comunque la trama. Quindi potremmo dire che è un film che tratta di alcune... Oh, ma perché mi... Scusa, l'indole da tecnico, ragazzi. L'indole da tecnico. Basta, ragazzi, comunque vedetevi questo film. Ciao, me ne vado a bere. Il nostro tempo è scaduto per questa sera, avete sentito questo delirio radiofonico completamente pluto-dadaista, neo-dadaista che cerca di imitare Radio Alice, probabilmente fallendo. Vi salutiamo qui al microfono per concludere questa serata, Stefano e Eleonora. E vi auguriamo una buona notte e non vi lasciamo con nessuna canzone perché il tempo non c'è. Ciao!